Parliamo adesso di un appuntamento che interessa questi giorni il Teatro Forte al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, con un laboratorio, uno spettacolo e un incontro tutto intorno alla figura di Stefano Cucchi. Ne parliamo con Riccardo. Riccardo, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie per l'ospitalità e un saluto a tutti. Allora, dici un po' di questi tre momenti. Allora, vi racconto anzitutto che 18, 19 e 20 c'è una 3 giorni di laboratorio intensivo tenuto dal regista dello spettacolo Luci della Città. Che tra l'altro abbiamo in archivio qui alla Radio Teatro, lo abbiamo mandato in onda sì, un paio di anni fa. È passato già lì da voi, in passato. E poi domenica invece... abbiamo lo spettacolo, ma prima dello spettacolo abbiamo deciso di mettere in piedi un incontro, una sorta di dibattito con realtà che si occupano insomma di questo tipo di argomenti, quindi ci sarà ACAD, ci sarà Radio Onda Rossa con Scarceranda nello specifico, e poi alle 18.30 inizierà lo spettacolo. Che dire sul laboratorio? Il laboratorio prende vita sostanzialmente da... dalle dinamiche che hanno fatto nascere lo spettacolo stesso, quindi un evento di cronaca dal quale trarre spunto per farlo diventare azione teatrale, per farlo diventare un momento di denuncia e di riflessione. Infatti nello specifico lo spettacolo che metteranno in scena domenico vede al centro della scena una sola attrice nei panni di uno Charlot. Hanno trovato insomma una probabilmente una congiunzione tra questa figura che ha voluto incarnare gli ultimi per antonomasia e anche una, diciamo così, un'affinità particolare. Insomma, Charlot era un improbabile boxer, come Stefano era a sua volta un boxer amatoriale, forse un po' improbabile anche lui, insomma, almeno negli ultimi periodi. E niente, questo è, diciamo così, ripeto, sono aperte le iscrizioni per il laboratorio ancora adesso, quindi basta scrivere una mail a teatroforte@forteprenestino.net e poi vi aspettiamo sia al dibattito, che è sempre un momento importante anche per confrontarci con ACAD e con Scarceranda per conoscere le varie iniziative. Ci sarà anche il papà di Stefano, ovviamente insieme a noi del teatro e del Forte e al regista dello spettacolo. Ok. Senti, i riferimenti web per saperne di più? Allora, per tutte quante le informazioni basta andare sul sito del Forte, che è forteprenestino.net, oppure visitare la pagina Facebook del Teatro Forte, che è appunto Teatro Forte, o scrivere una mail a teatroforte@forteprenestino.net. In generale da quest'anno il Forte ha aperto la sua segreteria, quindi per tutte quante quelle compagnie che vogliono avere informazioni sullo spettacolo, ma in generale sulle attività del teatro, basta fare un salto dopo le 17.30 il giovedì e il venerdì e trovano qualcuno di noi che tiene aperto il teatro per farlo vedere, per far vedere, insomma, per far conoscere le nostre attività, che sono sostanzialmente quelle di ospitalità di spettacoli, un aiuto nella produzione stessa di spettacoli teatrali, meglio se con scritture originali, perché ci teniamo a spingere quel fronte lì, ma è anche una sala attrezzata e può essere, diciamo così, utilizzata per provare, quindi se delle compagnie hanno necessità di provare o di presentare il loro spettacolo, di venire a proporre dei laboratori, noi ne facciamo anche un altro stabile che si tiene tutti i giovedì, che si chiama Rischio Forte. Può scriverci una mail, scriverci su Facebook o venirci direttamente a trovare. Benissimo. Riccardo, in chiusura ricordiamo questi tre momenti in sintesi? Sì, allora 18, 19 e 20 c'è il laboratorio, il 21 che è domenica alle 18.30 inizia lo spettacolo, ma alle 17 c'è il dibattito con ACAD, Scarceranda, Forte Prenestino, Teatro Forte, il papà di Stefano Cucchi e il regista dello spettacolo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede un lì. Un saluto, Crepi. Ciao. Grazie mille. Ciao Riccardo, ciao.